Pane burro rock and roll, sono 10 secondi alle 7.30. Che precisione. Venghino, signori, venghino! Benvenuti al servizio colazioni di Rock FM. Allora, lo sapevo, io lo so, le so già queste cose. È ovvio che oggi sarebbe stata così, dopo la festa di sabato, ci sono tutti gli amici toscani contenti della patente, gli altri incarogniti. A Genova però non siete ancora venuti, eh? A Imola però non siete ancora venuti. Vi promettiamo che l'impegno da oggi sarà quello di arrivare anche nelle zone dove ancora non abbiamo portato la patente da vero rocker. Intanto il mondo è bello perché è vario. Abbiamo aperto con questo amico che diceva, faceva i complimenti per la serata, diceva fiumi di birra, sesso nel bagno. Risponde Metal Guru, patente 663, acqua tonica e un amore impossibile, nonché platonico, altro che fungo. Patentato 627, balia da Fucecchio, conferma la birra a fiumi, però poi la mattina mi sono trovato a letto. Ma mi avranno rapito gli alieni e portato a casa? O è successo dell'altro? Queste sono domande, caro amico, che è meglio non porsi, fidati, no? Lascia stare, pensa ad andare a lavorare che è molto meglio. studia giorno e notte il nostro rocker di riferimento Roberto Friccantoni. Tra che saluta. Lavoro che potrebbe anche non fare, perché se poi deve concretizzarsi nella rubrica Le parole ribelli, guardi, potremmo anche farne a meno. Assolutamente per me, no. Per me. Io trovo invece che sia una rubrica indispensabile, perché rock, eccolo, è cultura, e la cultura è rock. L'idioma è ribelle e la parola è rock. E la parola di oggi, la ma parola no, dai, ribelle non facciamo, di oggi, la dobbiamo farla per forza. Beh, oggi è una primizia. No, ti dica, va bene. Mamalucco. Con una M o con due M? Con due M, ma anche Mamalucco. Ma anche Mamelucco. Anche Mamelucco? Sì. Arcaico? Arcaico. Deriva dall'arabo Mamluk. Ah. Lei è un Mamluk, sì, nel senso buono, vuol dire uno schiavo bianco comprato. Ah. Dall'antico arabo. Sarebbe stato, anzi è stato, un mercenario al servizio del sovrano d'Egitto, il Mamalucco, il Mamelucco. Ah, per estensione in italiano significa sciocco, stupidino, scemo. Scemotto. Scemotto, anche un uco. Ma cosa c'entra? Anche un uco. Cosa c'entra? Per estensione anche non c'entra un niente. Uno sciocco e un uco. Va bene. Però storicamente deve sapere, perché lei è curiosa, dunque dica, io voglio prego soddisfare la sua innata e giusta curiosità. In origine erano schiavi arruolati nelle milizie dei sultani d'Egitto, che a partire dal 1200 costruirono e costituirono una classe potente, temuta e rispettata, fino al 1700, quando vennero sconfitti da Napoleone. Ma questi Bonaparte. Chi? I Mamalucchi? I Mamalucchi, I Mamalucchi. I Mamalucchi. Degli schiavi ribelli? Sì, che si riunirono, col tempo diventarono una casta temuta e rispettata, riuniti quindi in varie etnie, sono le etnie dei Mamalucchi. E quindi quel cretino di Napoleone, oltre a rubarsi la Gioconda, ha pure sconfitto i Mamalucchi. Esatto, i Mamalucchi che insomma... Viene bene in maniera un po' lombarda, i Mamalucchi. I Mamalucchi, bello, bello. Ti piace? Mamalucchi. Io mi sento un po' Mamalucchi oggi. Ma a volte capita di sentirsi anche un po' ittita e un po' sumero, dipende dalle circostanze. Maestro, io oggi mi sento anche un filo sumero. Lei ne sa veramente sempre una più del diavolo. Posso ben dirlo, io che sono stato anche un po' diavolo, ma anche un po' acqua santa. Arrivederci. Massimo rispetto. A più tardi. Che c'è? Cioè, te lo vedi Strummer lì mentre stanno arrangiando Bank Robber con i suoi Clash, dice bisognerebbe mettere un coretto a sta canzone. Facciamo No, figata, bellissimo, dai, sì, mettiamolo. I Clash, siamo in diretta, sono le 7:41 minuti primi, ciao. Con noi c'è anche Fercantoni che è di là in redazione, si stanno inventando qualcosa, non voglio nemmeno pensarci. Continuiamo con i saluti. Oggi tanti al nostro numero di SMS. Un saluto ad Al da Forlì, patentato 668. Si complimenta anche lui per il seratone di sabato e si complimenta anche per la mia Diavoletto che fa molto rock. Grazie caro Al, buon gustaio. Un saluto a Fabio, milanese ma da 3 anni residente a Zena, meno male, splendida. Vuole sapere le nostre frequenze, amici, per le frequenze di Rock FM segnalo radiorockfm.com, c'è una bellissima pagina dedicata a tutti i numeri a disposizione di Rock FM e firma Forza Marina. Già con noi il Sogliola, nuovo patentato 1091, aia, numerazione più alta fino adesso, eh. Un saluto anche a Cri, fedeli della prima mezz'ora, e quindi ce la siamo già persa, vabbè. Patentato 841 chiede di poter fare Paranoid con lo scacciapensieri. Davvero? Noi qui stavamo lavorando ancora ai Led Zeppelin col Kazuma, se te la senti io, guarda. Proposte sono sempre ben accette, perché, esatto, fatemi riprendere le redini di questa trasmissione. Va bene che appunto sabato c'è stata la festa, quindi ok, ciao, figata, bellissimo, io ho una patente nuova. Però non dimentichiamoci degli obiettivi di Pane, Burro e Rock and Roll, della possibilità di trasformarsi in inviati. Non star qui sempre a incensarsi. Bravo, ottima idea quella di fare a Paranoid con lo scacciapensieri. Il nostro problema è sempre lo stesso, è dura essere un rocker oppure no? Sapete da quanto cosa mi manca? Il rapporto con i genitori, è tantissimo che non sentiamo genitori con problematiche educative nei confronti dei figli. Così, era una rubrica che mi piaceva. Saluto anche quello che ha scritto "Hai un fastidioso prurito intimo? Pane, burro e rock and roll". Così si sentiva di dircelo. Grazie in ogni caso. Deep Purple può servire? Questa è Lazy. Yeah. Oasi di Purple. 10 minuti alle 8. Siamo sempre qui, pane, burro e rock and roll. Con noi c'è anche Marina da Genova. Ciao Marina. Ciao ragazzi, vi trovate che sto camminando, che oggi riprendo il mio primo giorno di lavoro da ex fumatrice. E allora ricordiamo che l'amica che non sta fumando ormai da 9 giorni, sai perché me lo ricordo 9 giorni? No? È che è semplice, perché ho la numerazione delle puntate dal 2008 e tu hai smesso il primo giorno, quindi. No, in realtà no, non sticca. No, scusa, non dovevo dire. Non è 9 giorni, è di più, perché ci sono di mezzo i weekend. Guarda, io ho iniziato e adesso però cerco di non pensare, non faccio la conta, esatto. Rimango schiavizzato. Esatto, no, ma infatti non dobbiamo neanche più parlare di questa cosa. Tu comunque smetti, però volevamo festeggiare oggi che torni a lavorare, che ci sembrava una buona idea. Perché sennò... E festeggeranno anche le mie colleghe che finalmente mi ridanno il mio e loro si continuano a fare il loro. Volevo dirti, Ariel, lo voglio dire a tutti, che sei bellissima. Brava Marina, buon gustaria. A Firenze, sono riuscita a baciare. Anche. Brava, ricordo, e sei veramente belli anche gli altri, ma non c'è paragone. Diglielo, diglielo Marina. Senti, quindi anche tu hai la tua bella patente nel portafoglio? 878. Ma guarda, sono il numero 0878. Che orgoglio! Sì, bello, hai preso il calendario, la spillina dei pay. Ma tra l'altro suonate benissimo, quindi proprio bello, bella serata. Senti, ti vedo per essere lunedì mattina, ti sento bella allegra. Eh sì, perché poi alla fine, capito, sono anche contenta di tornare in ospedale, perché... No, ricordiamo che lavora in ospedale, non è che la rinterna, non pensare alla rinterna, per fortuna. Stamattina romperò un po' le balle a tutti, perché tutti mi diranno, mi chiederanno, io cercherò di stirare, me la terrò anche un po' stamattina. Brava. Perché brava, stamattina posso tirarmela un po', ce l'ho fatta. Senti, allora è ufficiale, da adesso mi devi camminare con le tue gambe, poi noi ci sentiremo comunque con calma per vedere se continui, però noi ci fidiamo, ormai è ufficiale, sembra che... Sì. Se cedo facciamo così, vi chiamo. No, riprendiamo le rubriche con una nuova fumatrice, una neofumatrice, una roba così. Speriamo di averlo scatenato un qualcuno, magari in te, che tu dici che fumi così tanto. No, io guarda, no, non è vero. Non è ancora il momento. Non è ancora il momento. Marina, ci risentiamo presto, è stato un piacere accompagnarti anche fino a qua. Tieni duro e adesso organizziamo qualcosa a Genova, per forza. Va bene, guarda, io penso che saremo in tanti. Io non ho capito l'altra sera se ce n'erano genovesi o no, perché sono arrivata insieme a un amico in due, poi non c'è un casino, però penso che ce ne fossero. No, qualcuno sicuramente c'era, ma dobbiamo farla in città, dai. Prossimo obiettivo Genova città, è fatta. Dai, ma secondo me tirate su un sacco di gente. Speriamo. Sì, più che altro bisogna trovare il posto, la gente lo so anch'io che la troviamo. È il posto il solito problema. Marina, buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie Ariel, un bacione a tutti e grazie di tutto. Grazie a te per i complimenti. Mi avete tenuto compagnia e anche spronato, perché mi avete spronato. Un bacione, ciao. Ciao, buona giornata, ciao. È inutile che mi guardi così, freak. Ha solo detto che sono più bello di te, perché ne capisce, Poi tu sei affascinante. La nostra coppia comica è così. Io, tu sei l'affascinante, io il bello. Ah, vabbè. I didn't mean Pronto? Buongiorno, qui Ariel di Pane Burro. Pronto? Buongiorno, qui Ariel di Pane Burro e Rock and Roll, trasmissione radiofonica. Non si capisce niente. Pronto? Pronto? Qui Ariel di Pane Burro e Rock and Roll, trasmissione radio di Milano. Lei sente la radio? Pronto, buongiorno, sono Roberto Fricantoni degli Schiantos, gruppo rock. Lei sente una radio rock che si chiama Rock FM? Pronto, signore? Ma ci sente? Pronto? Pronto. Era solo per chiedere un piccolo contributo d'ascolto. Pronto? No, aspettiamo, prima o poi attacca al massimo. Tanto paga la radio. Ah, c'è più nessuno, dai. Ma perché? Era solo per chiedere se ci vuole ascoltare. Ma la gente così è prevenuta, ha le sue ragioni. Ancora che gli vendiamo le robe. Ma sì, ha le sue ragioni, ma anche un po' di torto, insomma. Dai, come si fa? Meno ascolta. Attaccato. Bonham, Ringo Starr, Steve Copeland. Beh, loro sono stati maestri della batteria. Amici, fidatevi, guardiamo in faccia la realtà. Non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se vi ostinerete a voler suonare la batteria con le vostre braccia e con le vostre gambe. 1, 2, 3, 4. Pane, Burro e Rock and Roll vi dà l'occasione di diventare batteristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335 100 77 77, con la scritta rock con la bocca. Sì, non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca.